America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Tallinn in Estonia. Mario Platero. Questo viaggio di Barack Obama, sono al seguito del presidente americano che è atterrato questa mattina in Europa. Questo viaggio, dicevo, doveva essere dedicato esclusivamente all'Europa orientale, alla rassicurazione per i paesi baltici davanti alla minaccia russa e che le ingerenze militari di Mosca in Ucraina non si sarebbero mai ripetute. Invece, purtroppo, improvvisamente, dopo la tragica notizia di ieri, è stato un altro evento orrendo a prevalere nella cronaca: la decapitazione di Steve Sotloff, un altro giornalista americano della Florida, prigioniero dell'ISIS. Sentiamo il presidente americano poco fa in conferenza stampa qui a Tallinn. Non ci faremo intimidire. I loro atti orribili riescono solo a unirci come paese e ci rafforzano nella determinazione di lottare contro questi terroristi. Sotloff aveva 31 anni, era un freelance per Time, per Foreign Policy, e non è stato risparmiato nonostante un appello della madre. Ha pronunciato un breve discorso, devo dire agghiacciante, prima di essere sgozzato, un discorso in cui dice che il colpevole della sua morte è Obama per aver attaccato l'ISIL. Poi parla l'esecutore, di nuovo un tono agghiacciante, un esecutore che ha un marcato accento britannico, lo stesso tra l'altro che ha sgozzato Foley. Nel suo intervento di questa mattina Obama ha anche rassicurato i paesi baltici, questo era l'oggetto centrale del suo viaggio qui in questa regione, che si sentono, come vi dicevo, vulnerabili alle minacce russe. Come membri della NATO abbiamo l'articolo 5. Che ci obbliga a una mutua difesa collettiva. Questo articolo è infrangibile, incrollabile, è eterno e l'Estonia non rimarrà mai sola. L'America e la NATO sono dunque schierati con i paesi baltici, si applicherà l'articolo 5, cioè un attacco contro un paese e un attacco contro tutti, ma però resta un problema di fondo, perché al suo arrivo in Europa Obama continua ad avere una grave crisi di credibilità e c'è in effetti un elemento, secondo me, un elemento che accomuna Vladimir Putin e Barack Obama: entrambi negano l'evidenza. Putin continua a negare che mezzi corazzati, artiglieria, soldati russi siano entrati in Ucraina nonostante ci siano prove quotidiane della violazione dei confini di Kiev da parte di Mosca. Obama invece ha finora negato che l'ordine mondiale gestito dalla Pax Americana sia in pessime condizioni, le peggiori, devo dire, da molti decenni a questa parte. E Obama ha detto l'altra sera, e lo cito direttamente: beh, il mondo è sempre stato molto incasinato, se vedete i telegiornali sembra che tutto sia in fiamme, ma se ci pensate le sfide di oggi non sono comparabili a quelle con cui ci si confrontava durante la guerra fredda. Vero, solo che sono sfide ben più difficili per il problema dei confronti asimmetrici, per lo sfaldamento politico di ordini regionali come quello in Medio Oriente, ordini che hanno retto per quasi un secolo. E in questa situazione, devo dire, non ci si sente, almeno io non mi sento rassicurato dal fatto che il leader dell'Occidente, cioè Obama, parlando di ISIS, abbia detto pubblicamente, come ha fatto qualche giorno fa: non abbiamo una strategia. E così Obama, giustamente, devo dire, è stato punzecchiato sul New York Times da Frank Bruni un paio di giorni fa, che scrive: anche se non l'abbiamo questa strategia, è meglio non dirlo. È vero, devo dire, perché gli errori di comunicazione e di strategia di questa amministrazione sono stati molteplici. Però ora, a partire da oggi e poi nei prossimi giorni, con il vertice NATO, ci sarà un confronto diretto. Sentiamo di nuovo Barack Obama. Abbiamo fortemente sostenuto lo sforzo del presidente Poroshenko nel raggiungere un reale cessate il fuoco che potrebbe portare a una soluzione politica del conflitto. Finora non è stato possibile perché la Russia non si è comportata in maniera seria e ha fatto finta di non avere il controllo sui separatisti. Obama continua a considerare illegali le azioni di Mosca, come vi dicevo ha riaffermato la solidarietà degli Stati Uniti e della NATO ai paesi al confine con la Russia, la solidità dell'articolo 5 della carta della NATO, ha mostrato un fronte comune perché al vertice di oggi ci sono anche i presidenti di Lituania e di Latvia. E sul piano simbolico Obama ha parlato con il presidente dell'Estonia Tomas Hendrik dalla sede della Banca dell'Estonia, che è il palazzo dove fu proclamato già nel 1981 il governo provvisorio dell'Estonia, che gettò le fondamenta per l'indipendenza della Russia. E il messaggio che il presidente vuole dare ce lo illustra in modo molto chiaro Charles Kupchman, che è il responsabile dell'Europa al Consiglio per la Sicurezza Nazionale, e dice, di nuovo cito Kupchman: Putin dovrà sapere che non potrà neppure lontanamente fare le stesse cose che ha fatto in Ucraina o in Estonia o negli altri paesi baltici. Però, a parte l'apparizione simbolica di un presidente americano in un paese al confine con la Russia, l'appuntamento più importante, il confronto indiretto più importante di questo viaggio sarà il vertice NATO di giovedì e venerdì a Newport, vicino a Cardiff, in Galles. Sarà lì che Obama dovrà recuperare quella decisione e risolutezza che finora gli sono mancate. Per farlo dovrà capitalizzare sugli errori di Putin. Il più evidente, secondo me, del presidente russo è che le sue azioni spregiudicate hanno finito col convincere tutti, anche i più recalcitranti, che la NATO è più indispensabile che mai. E sul tavolo dei lavori di questi due giorni chiave per l'Occidente c'erano tre argomenti centrali: l'Afghanistan, con la fine della missione entro il 2014 e il passaggio a una semplice missione di addestramento, il potenziamento della capacità militare della NATO e l'identificazione di missioni future. In sostanza, finito l'Afghanistan, cosa faremo? Ecco, ora lo sappiamo bene cosa dobbiamo fare: dobbiamo occuparci della fragilità dell'Europa dell'Est e dobbiamo occuparci soprattutto del Medio Oriente. E una delle idee che era emersa prima del vertice e che sarà ribadita giovedì e venerdì era quella di creare una condizione per cui una guerra cibernetica, cioè gli attacchi ai sistemi informatici di un paese, sarebbero stati interpretati sempre in chiave articolo 5, cioè un attacco cibernetico a un paese equivale a un attacco contro tutti. Però, come vi dicevo, secondo me questa cosa passa in secondo piano. Da fonti informate vicino alla Casa Bianca abbiamo ascoltato che alla NATO di ISIS si parlerà poco, ci si occuperà soprattutto di Ucraina, si ufficializzerà la decisione di inviare un contingente a rotazione nei paesi dell'Europa orientale. Devo dire, anche se l'Ucraina, l'ho detto mille volte, è un problema serio e grave, e se la Russia va contenuta, sarebbe un errore confermare che per l'ISIS non c'è ancora una vera e propria strategia. La NATO ha come missione anche quella di tutelare la protezione dei membri al di fuori dei loro confini o comunque al di fuori dei confini della NATO. Credo che bisognerà occuparsene, quantomeno per evitare un paradosso: nel momento in cui si celebra la fine della missione in Afghanistan e la sconfitta, che poi sia temporanea o no, questo ce lo dirà la storia, dei talebani, è già nato un altro Stato che ospita e guida il terrorismo internazionale. C'è già questo califfato che occupa territori dell'Iraq e della Siria. Non parlarne, non affrontare questa minaccia con chiarezza, soprattutto dopo gli orrori di ieri, sarebbe mancare sia di risolutezza che di decisione, questa volta non soltanto per Obama, ma per tutta la NATO. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. In questa situazione non posso che proporvi una canzone per la pace. We Shall Overcome, Ce la faremo, di John Baez. We shall be Tallinn è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!